Intelligenza scontata. Introduzione. Oltre la meraviglia tecnologica, verso una pedagogia critica. Il titolo di questo rapporto, Intelligenza scontata, è stato scelto per incapsulare una duplice critica all'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa, gli AGI, nel tessuto dell'istruzione. Da un lato, l'entusiasmo quasi febbrile per le capacità di questi strumenti rischia di scontare, nel senso di devalutare, le facoltà cognitive umane che l'educazione ha storicamente cercato di coltivare. Il pensiero critico. L'autonomia intellettuale. La creatività autentica e la fatica dell'apprendimento profondo. 1. Dall'altro lato, l'intelligenza stessa di questi sistemi viene data, per scontata, ovvero adottata in modo acritico, senza una piena e diffusa comprensione delle sue fondamenta tecniche, dei suoi costi nascosti e dei suoi pregiudizi intrinseci. L'IAG viene spesso presentata come una soluzione neutrale e inevitabile, mascherando le complesse questioni etiche, sociali, politiche ed ecologiche che la sua implementazione comporta. Questo lavoro si discosta deliberatamente da una semplice elencazione di opportunità e sfide. Adotta, invece, un approccio dialettico, volto a dimostrare come le opportunità celebrate siano intrinsecamente e inestricabilmente legate ai rischi più profondi. La capacità di personalizzare l'apprendimento su vasta scala, ad esempio, è legata a doppio filo alla sorveglianza dei dati e alla privacy degli studenti. La promessa di efficienza per i docenti si scontra con il rischio di deprofessionalizzazione e intensificazione del lavoro. La democratizzazione dell'accesso all'informazione si confronta con la perpetuazione di bias sistemici e la concentrazione del potere tecnologico nelle mani di poche aziende. La struttura del rapporto riflette questo approccio critico. La parte I mappa il paesaggio attuale dell'IAG nell'istruzione, tracciandone la traiettoria storica, delineando il vasto spettro di applicazioni, dalla scuola primaria alla formazione post-universitaria, e sintetizzando le prove quantitative sul suo impatto, così come misurato dalle meta-analisi. La parte 2 si addentra nelle controversie centrali, esaminando in modo pedante le crisi che l'IAG induce in ambiti cruciali come l'integrità accademica, l'equità, il costo cognitivo per lo studente e le infrastrutture nascoste di copyright, privacy e impatto ambientale. Infine, la parte 3 analizza le risposte umane e istituzionali a questa trasformazione, esaminando i quadri di governance, l'evoluzione del ruolo dell'educatore e l'esperienza vissuta dello studente, per poi concludere con una riflessione che va oltre il tecnosoluzionismo. 5. L'obiettivo finale è fornire un'analisi esaustiva che riconosca l'IAG come uno strumento potente ma contestato, la cui integrazione non è un destino tecnologico da subire, ma una scelta pedagogica, politica ed etica da governare con consapevolezza e responsabilità. 4. Si tratta di un invito a rallentare il dibattito. 8. A porre domande difficili e a resistere alla narrazione dell'inevitabilità, per garantire che il futuro dell'istruzione rimanga saldamente ancorato a valori umanocentrici. Parte A. Il paesaggio dell'intelligenza artificiale generativa nell'istruzione. Sessione 1. Dalla logica programmata al dialogo generativo, una breve storia dell'IA in class. La comparsa di strumenti come ChatGPT nel 2022 ha dato l'impressione di una rivoluzione improvvisa, ma le radici dell'intelligenza artificiale nell'istruzione AID sono profonde e si estendono per quasi un secolo. La traiettoria di questa evoluzione non è stata lineare, ma ha seguito una continua rinegoziazione tra diverse filosofie pedagogiche e capacità tecnologiche, culminando nell'attuale era dell'IA generativa. Le origini concettuali e meccaniche. Ben prima dell'avvento dei computer digitali, l'idea di automatizzare l'istruzione era già presente. Nel 1924, Sidney Pressey, psicologo dell'Ohio State University, sviluppò una macchina per insegnare meccanica che assomigliava a una macchina da scrivere. Questo dispositivo presentava domande a scelta multipla e forniva un feedback immediato, registrando il punteggio dello studente. 9. Sebbene rudimentale, la macchina di Pressey incarnava già due principi fondamentali dell'AI moderna: l'apprendimento individualizzato e il feedback istantaneo. Negli anni 50, il comportamentista B.F. Skinner, influenzato dalle teorie di Edward L. Thorndike, perfezionò questo concetto. La sua teaching machine non si basava sul riconoscimento di risposte predefinite, ma richiedeva agli studenti di costruire le proprie risposte, che venivano poi rinforzate positivamente in caso di correttezza. 9. Queste prime macchine, pur essendo puramente meccaniche, riflettevano le teorie dell'apprendimento dominanti dell'epoca, dimostrando come la tecnologia educativa sia sempre stata un riflesso delle correnti filosofie pedagogiche. 11. È l'avvento dell'istruzione assistita dal computer, CI, e dei sistemi di tutoraggio intelligenti, ITS. La vera svolta avvenne con l'introduzione dei computer. Negli anni 60, il sistema Plateau Programmed Logic for Automatic Teaching Operations, presso l'Università dell'Illinois, fu uno dei primi esempi di istruzione assistita dal computer CA, permettendo agli studenti di interagire con materiali didattici attraverso testo, grafica e audio su terminali condivisi. 12. Due termine, intelligenza artificiale, fu coniato formalmente nel 1956 durante la conferenza di Dartmouth e negli anni 70. Il lavoro di ricercatori come Jaime Carbonell iniziò a esplorare come le tecniche di IA potessero superare i limiti dei sistemi CAI tradizionali. 14. Questo portò alla nascita dei sistemi di tutoraggio intelligenti. Intelligent Tutoring Systems ITS. A differenza dei sistemi CAI, ci seguivano percorsi pre-programmati, frame-based. Gli ITS miravano a simulare un tutor umano. Per fare ciò, erano tipicamente costruiti attorno a quattro componenti fondamentali. Un modello del dominio. La conoscenza da insegnare. Un modello dello studente. Ciò che lo studente sa e non sa. Un modello pedagogico. Le strategie di insegnamento da applicare. E un'interfaccia utente. 14. Esempi classici come il Lisp Tutor, sviluppato negli anni 80 da John Anderson e colleghi alla Carnegie Mellon University, integravano una teoria cognitiva dell'apprendimento. ACT, per tracciare il processo di pensiero dello studente passo dopo passo e fornire un aiuto mirato. Questo rappresentò un passaggio cruciale, da un modello di semplice trasmissione di contenuti a un modello di guida e modellazione dell'apprendimento. L'emergere dell'IA generativa. La fase attuale è definita dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa, AIG. L'AIG è un sottoinsieme dell'IA specificamente progettato, non solo per analizzare o classificare dati esistenti, ma per creare contenuti completamente nuovi: testo, immagini, codice, audio, che imitano la creatività e la coerenza umana. 18. Questa capacità deriva da progressi fondamentali nelle architetture di rete neurale, in particolare l'architettura Transformer, che ha permesso lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni. Large Language Models LLM. La serie di modelli GPT, Generative Pre-Trained Transformer, di OpenAI esemplifica questa evoluzione esponenziale. GPT-1, rilasciato nel 2018, aveva 117 milioni di parametri. GPT-2, 2019, ne aveva 15 miliardi, mentre GPT-3, 2020, ha raggiunto i 175 miliardi di parametri, addestrati su un vasto corpus di dati che include Common Crawl, WebText 2, libri e Wikipedia. 18. Il lancio pubblico di ChatGPT nel novembre 2022, basato su queste architetture, ha reso questa potente tecnologia accessibile a milioni di persone, segnando un punto di non ritorno per molti settori, inclusa l'istruzione. 21. Questa evoluzione storica rivela una tensione fondamentale e persistente nel campo dell'ALED. Le prime macchine per insegnare, e i sistemi CAI, erano primariamente focalizzati sull'automazione di compiti specifici. La presentazione di informazioni e la correzione di risposte. Un modello spesso descritto come drill and kill. Il loro scopo era l'efficienza nella trasmissione della conoscenza. Con l'avvento degli ITS, l'ambizione si è spostata verso l'aumento augmentation delle capacità umane. Un sistema che non si limita a trasmettere, ma modella, guida e adatta l'apprendimento in modo più complesso e dialogico. 14. L'attuale dibattito sull'IAG ripropone fedelmente questa storica tensione. Da un lato, l'IAG è promossa come uno strumento per automatizzare compiti amministrativi e didattici, come la pianificazione delle lezioni, la creazione di quiz e la valutazione, liberando tempo per gli insegnanti. 23. Dall'altro, è presentata come un partner per aumentare la creatività, il pensiero critico e la ricerca, agendo come un compagno di pensiero o un tutor socratico. 26. La storia dell'IAD, quindi, non è un progresso lineare verso un unico fine, ma una continua rinegoziazione tra due filosofie. Una che cerca di sostituire le funzioni umane per motivi di efficienza, automazione, e una che cerca di potenziarle, aumento. Il modo in cui l'IAG sarà effettivamente integrata nei sistemi educativi dipenderà da quale di queste due visioni prevarrà nelle politiche istituzionali, nelle pratiche pedagogiche e nei modelli di business del settore edtech. Sezione 2. E lo spettro applicativo. E l'IAG dalla scuola primaria alla ricerca postlaurea. L'impatto dell'intelligenza artificiale generativa si estende a tutti i livelli del sistema educativo, manifestandosi con modalità e obiettivi diversi a seconda del contesto, dalla scuola dell'infanzia fino ai più alti gradi della ricerca accademica. Sebbene la ricerca e il dibattito pubblico si siano concentrati maggiormente sull'istruzione superiore, le applicazioni nel settore CAF, DOLAS, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, sono in rapida espansione e rivelano tendenze significative. Istruzione primaria, i secondaria, K-12. Nel contesto K-12, l'IAG viene prevalentemente proposta e utilizzata come strumento di supporto per l'insegnante e di personalizzazione per lo studente. Le applicazioni più comuni includono personalizzazione su scala. L'IAG permette agli insegnanti di creare percorsi di apprendimento differenziati analizzando le performance degli studenti per identificare lacune e punti di forza. Sulla base di questa analisi, può generare dinamicamente esercizi, materiali di lettura e attività su misura per i singoli studenti o per gruppi di livello 28. Questa capacità è particolarmente preziosa in classi con una forte eterogeneità di competenze. Un problema comune nei sistemi educativi di massa. 22. Creazione di contenuti interattivi e multimodali. Una delle applicazioni più immediate per gli educatori è l'uso dell'IAG, per ridurre il tempo di preparazione delle lezioni. Gli insegnanti possono generare rapidamente piani di lezione, bozze di compiti, ausili visivi come infografiche, attività coinvolgenti, anche aggiungendo riferimenti alla cultura popolare per aumentare l'interesse degli studenti. 22. Strumenti come Amazon, Polly, che converte il testo in parlato realistico, o le funzionalità text-to-image integrate in piattaforme come Canva, permettono di creare risorse multimodali. Ci si adattano a diversi stili di apprendimento, visivo, uditivo, e migliorano l'accessibilità per studenti con difficoltà di lettura o disabilità visive. 28. Supporto linguistico e inclusività. In aule sempre più multiculturali, l'IAG si rivela uno strumento potente per l'inclusione. Può tradurre istantaneamente materiali didattici in più lingue, supportando gli studenti non madrelingua English Language Learners, ELS, o alloglotti, e garantendo che le barriere linguistiche non ostacolino l'apprendimento. 28. Può anche generare glossari bilingui o semplificare testi complessi per renderli più accessibili. Sites feedback in tempo reale. Piattaforme basate sull'IAG possono fornire correzioni e spiegazioni immediate durante lo svolgimento di quiz ed esercizi. Questo feedback, istantaneo, non solo accelera il processo di apprendimento, permettendo agli studenti di correggersi in tempo reale, ma può anche aumentare la loro fiducia e motivazione, incoraggiando una partecipazione più attiva. 28. Istruzione superiore e formazione post-universitaria. Nell'istruzione superiore, l'uso dell'IAG è più maturo e si estende a compiti cognitivamente più complessi, diventando uno strumento per studenti, docenti e amministratori. Supporto alla ricerca e alla scrittura accademica. L'IAG è ormai uno strumento onnipresente nel mondo academics. Studenti, ricercatori e docenti la utilizzano per il brainstorming di idee, la generazione di bozze di articoli, la sintesi di grandi volumi di letteratura scientifica, la formulazione di ipotesi di ricerca e persino la scrittura di codice per l'analisi dei dati. 33. Viene comunemente concettualizzata come un assistente alla scrittura e alla produttività, che può aiutare a superare l'ostacolo iniziale dell'organizzazione dei pensieri. 33. Sviluppo di competenze professionali e interdisciplinari. L'integrazione dell'IAG nei curricula universitari è sempre più vista come una necessità per preparare gli studenti a un mercato del lavoro in cui la familiarità con questi strumenti è una competenza fondamentale. 33. L'IAG facilita anche l'apprendimento interdisciplinare, permettendo agli studenti di esplorare connessioni tra campi diversi e di accedere a conoscenze specialistiche al di fuori del proprio dominio. 33. Automazione amministrativa e efficienza istituzionale. A livello istituzionale, le università sfruttano l'IAG per ottimizzare una serie di processi amministrativi. Questo include la stesura di bozze di documenti ufficiali, manuali, promemoria e policy interne, la gestione e lo screening iniziale delle domande di ammissione e l'identificazione di opportunità di finanziamento per la ricerca attraverso l'analisi di bandi e call for proposals. 34. Sì, integrazione in piattaforme di apprendimento e libri di testo digitali. I grandi editori accademici, come Pearson e McGraw-Hill, stanno investendo massicciamente nell'integrazione di strumenti di IAG direttamente all'interno delle loro piattaforme di apprendimento. ES, MyLab, Mastering, Connect e dei loro libri di testo digitali e textbooks. 38. Questi tutor AI integrati possono fornire riassunti, generare quiz contestuali e rispondere alle domande degli studenti basandosi direttamente sul contenuto affidabile del libro di testo, offrendo un supporto allo studio personalizzato e on demand. 38. Parallelamente, si sta esplorando l'uso di piattaforme open source come OpenWebUI, per creare ecosistemi di apprendimento più flessibili e controllabili dalle istituzioni stesse. 42. L'analisi dello spettro applicativo rivela una tensione critica, un divario crescente tra le discussioni tecniche sull'IAG e le realtà pedagogiche affrontate dagli educatori. Una revisione sistematica della letteratura ha identificato questa disconnessione come una caratteristica centrale del campo emergente della ricerca su IAG e istruzione. 33. Da un lato, il filone tecnico si concentra sullo sviluppo di modelli sempre più potenti, misurandone le capacità su benchmark astratti. Dall'altro, il filone pedagogico si confronta con le sfide pratiche dell'implementazione in classe. Come utilizzare questi strumenti in modo efficace, etico e in linea con gli obiettivi di apprendimento? Le applicazioni concrete, specialmente in ambito K12 e nelle piattaforme commerciali, tendono a concentrarsi su compiti ben definiti e a basso rischio, come la generazione di quiz o la sintesi di testi. 28. Nell'istruzione superiore, invece, le capacità avanzate dell'IAG si scontrano immediatamente con questioni complesse, come l'integrità accademica, costringendo a un dibattito più profondo sulla natura stessa della valutazione. 34. Questo divario suggerisce che il principale ostacolo all'integrazione significativa dell'IAG non è di natura tecnologica, ma pedagogica e istituzionale. Manca una comprensione condivisa e linee guida consolidate su come integrare efficacemente questi strumenti nei curricula. 33. Inoltre, l'IAG si distingue dalle tecnologie educative precedenti per la sua modalità di diffusione. A differenza dei computer portatili o delle lavagne interattive, che sono state introdotte nelle scuole attraverso politiche di adozione pianificate e top-down, l'IAG è una arrival technology. 22. Similmente agli smartphone, la sua presenza nelle aule non è il risultato di una decisione istituzionale, ma di un'adozione spontanea e dal basso da parte degli studenti. Essi utilizzano questi strumenti indipendentemente dalle politiche scolastiche, spesso attraverso applicazioni di uso comune come Snapchat, che integra funzionalità di IAG, SnapAI. 22. Questa dinamica inverte il modello tradizionale di adozione tecnologica. Le scuole e le università non si trovano nella posizione di decidere se e come adottare una nuova tecnologia, ma sono costrette a reagire e a governare una tecnologia che è già ampiamente presente e utilizzata. Questa realtà spiega perché molte istituzioni si trovino ancora sprovviste di policy formali. 45. Esposta l'urgenza dalla pianificazione proattiva alla gestione reattiva di una trasformazione già in atto. Sezione 3. Misurare l'impatto. Una sintesi dei risultati meta-analitici. Per superare le narrazioni aneddotiche e le speculazioni, è fondamentale esaminare le prove. Quantitative sull'efficacia dell'intelligenza artificiale generativa. IAG, nell'istruzione. Negli ultimi anni, diverse meta-analisi hanno cercato di sintetizzare i risultati di studi empirici indipendenti, offrendo un quadro più robusto del suo impatto sui risultati di apprendimento. Effetto complessivo e dimensioni dell'impatto. Una convergenza notevole emerge da questi studi. L'integrazione dell'IAG nei contesti educativi ha, in media, un effetto positivo sui risultati degli studenti. Le dimensioni di questo effetto. Effect size, misurate comunemente con la statistica GD Hedges, variano da moderate a significative a seconda del campione di studi analizzato. Una meta-analisi che ha sintetizzato i risultati di 31 articoli, coinvolgendo un totale di 2646 partecipanti, ha rilevato un effetto positivo moderato complessivo, con un valore di G uguale a 0,68946. Un'altra revisione sistematica di 26 studi sperimentali e quasi sperimentali ha concluso che l'IAG ha un effetto positivo moderato sul rendimento accademico degli studenti. 47. Una terza meta-analisi, basata su 13 studi empirici condotti in 8 paesi, ha riportato una dimensione dell'effetto positiva e significativa, con G uguale a 0,86, indicando benefici sostanziali. 48. Focalizzandosi specificamente sugli studenti universitari, una meta-analisi di 28 articoli ha confermato un impatto positivo di media entità, con G uguale a 0,53350. Questi dati quantitativi suggeriscono che, al di là dell'entusiasmo e delle preoccupazioni, l'uso di strumenti di IAG è associato a miglioramenti misurabili nelle performance degli studenti. Efficacia degli strumenti e delle applicazioni specifiche. L'efficacia non è uniforme tra tutti i tipi di applicazioni IAG. Le meta-analisi evidenziano una chiara superiorità degli strumenti che facilitano l'interazione e il dialogo rispetto a quelli che si limitano a fornire valutazioni. Gli strumenti più efficaci sono risultati essere i chatbot e le IAG conversazionali, che hanno dimostrato l'impatto positivo più sostanziale, con una dimensione dell'effetto notevolmente alta di G uguale a 10.248. Coerentemente, un'altra analisi ha rilevato che le applicazioni basate sull'interazione conversazionale, GI uguale a 0569, e sulla generazione di contenuti. GI uguale a 0541, erano non solo le più utilizzate, ma anche le più efficaci. Al contrario, le applicazioni focalizzate esclusivamente sul feedback di valutazione, ES, correzione automatica di compiti, hanno mostrato un effetto quasi trascurabile. GI uguale a 0148, tonto 47. Questa distinzione è fondamentale. Il valore pedagogico dell'AIG sembra risiedere non tanto nella sua capacità di giudicare il prodotto finale del lavoro di uno studente, quanto nella sua abilità di dialogare con lo studente durante il processo di apprendimento. L'efficacia non è una funzione della sua intelligenza valutativa, ma della sua capacità di simulare un'interazione socratica o un tutoraggio personalizzato. Questo sposta l'enfasi pedagogica dall'IAG, come strumento di valutazione, all'IAG, come strumento di mediazione e supporto al processo cognitivo, variabili moderatrici e alta eterogeneità. Un risultato cruciale e ricorrente in tutte le meta-analisi è l'alta eterogeneità tra gli studi, con valori dell'indice 12 che superano costantemente il 50% e spesso il 75%. Questo indica che le differenze nei risultati tra i singoli studi non sono dovute al caso, ma a fattori sistematici. L'efficacia dell'IAG non è quindi universale, ma è fortemente moderata da variabili contestuali. Durata dell'intervento. Gli interventi a lungo termine e ripetuti nel tempo si sono dimostrati significativamente più efficaci degli interventi singoli e isolati. Dimensione del campione. Un risultato controintuitivo e sorprendente è emerso da uno studio che ha analizzato la dimensione del campione come variabile moderatrice. L'effetto positivo dell'AIAG era massimo in studi con campioni di piccole e medie dimensioni, fino a 150 partecipanti, ma diminuiva drasticamente fino a diventare negativo, GI uguale a meno 121, in studi con campioni più grandi. Questo risultato sfida la narrazione comune dell'AIAG come soluzione plug and play per la personalizzazione di massa. Potrebbe suggerire che l'impatto positivo dell'AIAG è strettamente legato a implementazioni attentamente progettate e supervisionate da un insegnante in contesti più piccoli e controllati, dove lo strumento può essere integrato in modo significativo nella pedagogia esistente. L'idea di una personalizzazione di massa completamente automatizzata potrebbe essere un'illusione. La vera personalizzazione potrebbe ancora richiedere un'intensa mediazione umana. Disciplina e livello scolastico. Sebbene l'IAG sembri applicabile ai vari livelli scolastici e discipline, alcuni studi notano un impatto differenziato a seconda dell'area di studio. 47. Infine, è importante notare che la maggior parte della ricerca sperimentale si è concentrata sull'istruzione superiore, lasciando una notevole carenza di studi rigorosi sull'impatto dell'IAG nel contesto K12.33. Di riferimento. Al, Asawai, et generale al. 2025, 48, con meno 12 higher. 13 studi 086. Studio, fonte popolazione N. Studi effect size, intervallo di livello di moderatori. Partecipanti complessivo, confidenza eterogeneità significativi. Hedges, G. 95%, CI. 0,45. 127. 12. Identificati. 54.03%, tipo di 93.03%, ed strumento chatbot AIAGG uguale e sento diu. Zhang et al. Generale, 2025, 46, 31 articoli 0689 in alta durata, 2646 part, intervento, strumento, IAG, formato, test, Luo et al. Generale 26 studi moderato N, e 21.7% menzione, 2024, 47 positivo, alta, campione, durata, intervento, forma, applicazione. Sun and Joe studenti 28 articoli bata 0533, 408, alta style di 2025, 50 universitari, 1909 part, 0159 apprendem, NTO, dimensione campione. Tabella 1. Sintesi dei risultati meta-analitici sull'efficacia dell'AIAG nell'Instruction E. La tabella condensa i dati quantitativi chiave dalle principali meta-analisi, evidenziando l'impatto positivo ma altamente contestuale dell'IAG. Parte 2. Le controversy centrali. UN esame critico dei AI. Rischi e delle sfide. L'adozione dell'intelligenza artificiale generativa nell'istruzione non è un processo lineare di progresso tecnologico, ma un campo minato di controversie complesse e interconnesse. Le promesse di efficienza e personalizzazione si scontrano con rischi fondamentali che mettono in discussione i pilastri stessi dell'educazione. l'autenticità del lavoro dello studente, l'equità del sistema, lo sviluppo cognitivo e la sicurezza delle infrastrutture digitali. Questa parte analizza in profondità queste controversie centrali. Sezione 4. La crisi dell'autenticità. Integrità accademica nell'era della generazione. La sfida più immediata e discussa posta dall'IAG all'istruzione è la minaccia all'integrità accademica. La capacità degli LLM di produrre testi coerenti, grammaticalmente corretti e argomentativamente plausibili in pochi secondi ha scatenato un panico morale incentrato sul plagio e sulla disonestà accademica. 18. Il plagio e il dilemma della rilevazione. La preoccupazione principale è che gli studenti possano utilizzare strumenti come ChatGPT per generare interi saggi o compiti, presentandoli come lavoro originale e bypassando così il processo di apprendimento. 53. Questa possibilità ha spinto il mercato EdTech a rispondere con una controtecnologia, i software di rilevamento dell'IAC, il più noto dei quali è integrato nella piattaforma Turnitin, già ampiamente utilizzata per il controllo antiplagio. 55. Tuttavia, l'efficacia e l'etica di questi strumenti di rilevamento sono state oggetto di intense critiche, creando un dilemma per le istituzioni. 1. Inaffidabilità e falsi positivi. Numerosi studi e inchieste giornalistiche hanno dimostrato che i rilevatori di IA hanno un tasso di falsi positivi preoccupantemente alto, etichettando erroneamente testi scritti da esseri umani come generati da macchine. 56. Turnitin stessa ammette che il suo strumento potrebbe non essere sempre accurato e non dovrebbe essere l'unica base per azioni disciplinari, segnalando una minore affidabilità per punteggi di somiglianza IA tra l'1% e il 20%. 58. Un tasso di errore anche solo dell'1%, come inizialmente dichiarato, si tradurrebbe in centinaia di false accuse in una grande università. 56. 2. Bias discriminatorio. È emerso un grave bias sistemico in questi strumenti. I rilevatori di IA sono significativamente più propensi a classificare come artificiale il testo scritto da persone non madrelingua inglesi, English Language Learners, ELS. 56. Questo non solo è ingiusto, ma rischia di penalizzare sistematicamente gli studenti internazionali e le minoranze linguistiche. 3. Opacità della scatola nera. Le aziende come Turnitin non rivelano come funzionano i loro algoritmi, citando segreti commerciali e limitandosi a menzionare la ricerca di pattern comuni nella scrittura IA. 56. Questa mancanza di trasparenza rende impossibile una validazione scientifica indipendente e solleva questioni etiche sulla delega di giudizi accademici a un sistema opaco. Questa situazione ha creato una corsa agli armamenti tecnologica tra la generazione di testo e il suo rilevamento. Mentre i modelli di AIG diventano sempre più sofisticati e il loro output sempre più indistinguibile da quello umano. 60. Gli strumenti di rilevamento faticano a tenere il passo, producendo risultati inaffidabili e distorti. Questa dinamica sposta pericolosamente l'attenzione da una necessaria discussione pedagogica su come ridefinire l'apprendimento e la valutazione a una problematica dipendenza da una sorveglianza tecnologica imperfetta e potenzialmente dannosa. Risposte istituzionali e pedagogiche. Di fronte a questa crisi, le risposte delle istituzioni educative sono state variegate. Alcuni distretti scolastici hanno inizialmente imposto divieti totali. 61. Tuttavia, molte università si sono mostrate riluttanti, riconoscendo l'impossibilità pratica di far rispettare un tale divieto. 61. La tendenza emergente è quella di sviluppare policy chiare che definiscano l'uso accettabile dell'AIG, che può spaziare da un divieto esplicito a un uso consentito con obbligo di citazione, fino a un uso richiesto come parte integrante del compito. 62. Sul fronte pedagogico, gli educatori sono spinti a riprogettare le valutazioni per renderle più resistenti all'uso improprio dell'IA. Le strategie includono richiedere una voce personale e riflessioni individuali, che l'IA fatica a simulare in modo autentico. 63. Si può incorporare riferimenti a discussioni, lezioni o esperienze specifiche dell'aula, che l'IA non può conoscere. 63. Spostare il focus della valutazione dal prodotto finale al processo, richiedendo bozze, note o discussioni orali sul lavoro svolto. Si può utilizzare l'IAG in modo costruttivo, ad esempio come strumento per il brainstorming, per generare una prima bozza da criticare e analizzare, o per confrontare diverse prospettive su un argomento. 63. Privacy e proprietà intellettuale dello studente. Un aspetto spesso trascurato del dibattito sull'integrità accademica riguarda le implicazioni per la privacy e la proprietà intellettuale degli studenti. L'uso di piattaforme come Turnitin si basa sul caricamento e l'archiviazione dei lavori degli studenti nel suo vasto database. Le condizioni di servizio di Turnitin richiedono una licenza perpetua, irrevocabile, non esclusiva, senza royalty, trasferibile e sublicenziabile sui lavori degli studenti. 64. Sebbene l'azienda affermi di agire sotto il controllo dell'istituzione cliente e nel rispetto di leggi come il FERPA negli Stati Uniti, la sua politica sulla privacy dettaglia una raccolta estensiva di dati personali e metadati, inclusi nomi, email, dati educativi, indirizzi IP e persino sequenze di tasti. 65. Questo crea una profonda contraddizione. Per proteggere l'integrità accademica di un'istituzione, si richiede agli studenti di cedere diritti significativi sui propri dati e sulla propria proprietà intellettuale a una società a scopo di lucro. Le istituzioni si trovano così in una posizione eticamente precaria, dove la ricerca dell'integrità accademica entra in conflitto diretto con la protezione dei diritti a lungo termine dei propri studenti, un conflitto raramente affrontato in modo esplicito nelle policy istituzionali. Sezione 5. E lo specchio algoritmico. Bias, equità e il divario digitale. L'intelligenza artificiale generativa non è uno strumento neutrale. Al contrario, agisce come uno specchio che riflette, e spesso amplifica, i pregiudizi, le disuguaglianze e le strutture di potere esistenti nella società. I modelli sono addestrati su enormi quantità di dati prelevati da Internet, un archivio che contiene il meglio e il peggio della conoscenza e della cultura umana, inclusi stereotipi radicati e visioni del mondo distorte. 66. Questo bias algoritmico non è un difetto tecnico occasionale, ma una caratteristica intrinseca dell'attuale generazione di AI, con profonde implicazioni per l'equità nell'istruzione, il divario digitale e le disuguaglianze socio-economiche. La promessa dell'IAG di democratizzare l'accesso a un'istruzione di alta qualità si scontra con la dura realtà del divario digitale. L'uso efficace di questi strumenti dipende da una serie di precondizioni che non sono distribuite equamente. Siut, accesso economico. Molti degli strumenti di IAG più potenti e affidabili operano su un modello freemium, dove le funzionalità avanzate richiedono un abbonamento a pagamento. Questo crea una barriera diretta per gli studenti provenienti da contesti a basso reddito. 69. Siwhites, accesso tecnologico. È l'uso dell'IAG richiede dispositivi moderni e una connessione internet stabile e veloce. Risorse che mancano in molte famiglie a basso reddito e in scuole sottofinanziate, specialmente in aree rurali. 23. Siwhite, divario di competenze. L'uso efficace degli IAGRI richiede un livello di alfabetizzazione digitale e di pensiero critico che è esso stesso correlato al background socio-economico. Questa situazione rischia di creare un sistema educativo a due velocità. Le scuole e gli studenti con maggiori risorse possono sfruttare l'IAG come strumento supplementare per arricchire un'istruzione già di alta qualità. Al contrario, le scuole più povere, prive di risorse umane e materiali, potrebbero essere tentate di utilizzare l'IAGI come un sostituto a basso costo, portando a esperienze educative diseguali e potenzialmente dannose. 71. Inoltre, l'impatto ambientale legato all'enorme consumo di energia e acqua dei data center necessari per l'IA ricade in modo sproporzionato sulle comunità più povere e vulnerabili a livello globale. 69. Impatto su gruppi specifici. Il bias intrinseco nei modelli IAG e le disuguaglianze nell'accesso hanno un impatto particolarmente acuto su specifici gruppi di studenti. Studenti con disabilità e neurodivergenti. L'IAG presenta un potenziale a doppio taglio. Da un lato, può essere uno strumento di accessibilità rivoluzionario, offrendo sintesi vocale, text-to-speech, semplificazione del testo, creazione di materiali multimodali e supporto personalizzato per studenti con dislessia, ADHD o disturbi dello spettro autistico. 72. Dall'altro, questo potenziale è minato da diversi fattori. Molti strumenti di IAG non sono progettati secondo i principi dell'accessibilità universale, ad esempio, potrebbero non essere navigabili da tastiera o compatibili con gli screen reader. 75. I dati di addestramento raramente rappresentano in modo adeguato le persone con disabilità, portando a output imprecisi o che perpetuano stereotipi. 73. Inoltre, una reazione comune delle istituzioni alla sfida del plagio tramite IA è quella di tornare a valutazioni rigide e in presenza, eliminando quella flessibilità online che si è rivelata fondamentale per molti studenti con disabilità. 75. Si crea così un paradosso in cui la tecnologia promessa per l'inclusione finisce per creare nuove barriere. Sedenti, alloglotti. English Language Learners, El Sanche per gli studenti che apprendono l'inglese come seconda lingua, il quadro è ambivalente. L'IAG offre un supporto prezioso attraverso la traduzione istantanea, la generazione di glossari, la semplificazione di testi complessi e la possibilità di praticare la pronuncia in un ambiente a basso rischio. 32. Tuttavia, i modelli, addestrati prevalentemente su testi in inglese standard, possono manifestare bias linguistici. I sistemi di riconoscimento vocale faticano a comprendere accenti non standard. 59. E, come già menzionato, i software di rilevamento dell'IA tendono a penalizzare ingiustamente gli scrittori non madrelingua. 56. Divari geopolitici e il sud globale. Lo sviluppo e il controllo delle tecnologie IAG sono fortemente concentrati nel nord globale, in particolare negli Stati Uniti, in Cina e in Europa. 45. I modelli sono addestrati su dati che riflettono i valori, le norme e le visioni del mondo di queste regioni, rendendoli spesso culturalmente inappropriati o irrilevanti per il sud globale. 45. In regioni come l'America Latina e l'Africa, la sfida principale rimane l'accesso all'infrastruttura di base come elettricità e connettività internet, che rende l'integrazione dell'IA un obiettivo lontano per la maggior parte delle scuole pubbliche. 77. Le iniziative locali, sebbene preziose, e fondamentali in Sudafrica. 80. Sono spesso frammentari e faticano a raggiungere una scala sufficiente per contrastare il dominio dei modelli del nord globale. 81. L'effetto predefinito dell'IAG, se non contrastato da interventi politici ed economici mirati, non è quello di essere un grande equalizzatore. Al contrario, agisce come un acceleratore di disuguaglianze, amplifica i vantaggi esistenti per coloro che già dispongono di risorse economiche, tecnologiche e culturali, mentre erige nuove barriere per coloro che sono già svantaggiati. Senza un impegno deliberato per l'equità, l'IAG rischia di solidificare e approfondire le fratture esistenti nel panorama educativo globale. Area di impatto, sviluppo sfida. Necessità curriculare di allineare i curricula alle competenze, IA richieste dal mercato del lavoro, superando la resistenza dei docenti. 33. Sfida, crisi, automazione dell'integrità valutazione di accademica in compiti complessi. Valutazioni ad alta, S, codice, analisi posta in gioco. Studenti usano l'IA dati, valutazione, tesi, esami, per bypassare lo delle competence necessità di sforzo. Di prompting bont 87. Ripensare in affidabilità dei radicalmente i rilevatori di IA. 56. Metodi di valutazione. 44. Sfida, rischio di opportunità. Sfida, rischio di sviluppo precoce, atrofia delle sviluppo di scarico dell'alfabetizzazio. Competenze di cognitivo, anche ne digitale del cognitive ordine. Superiore su compiti pensiero fondamentali, ricerca, sintesi, complessi. Computazionale. 89. Pensiero critico, argomentazione, necessità di problem solving e preparazione formare all'uso causa della per ruoli etico e critico indipendenza professionali contesti tecnologica. 52. Avanzati. 8-27. Professionali. 90. Equità e accesso opportunità. Sfida. Il divario opportunità. Sfida. Il divario si supporto per digitale di accesso a risorse sposta studenti con accesso a di ricerca e sull'accesso a disabilità e dispositivi e tutoraggio, strumenti alloglotti, internet, e l'ha avanzato per premium, a dati di attraverso la barriera studenti di alta qualità e a reti personalizzazione principale. Bias istituzioni meno professionali, bias e l'accessibilità. 32. Degli strumenti prestigiose. 70. Algoritmi con L. Valutazione e opportunità. Sfida. Difficoltà feedback nel valutare le formativo competence di istantaneo, e bus, lettura, personalizzato, su scrittura, segli compiti a bassa posta in gioco. 28. Opportunità. Sviluppo di competenze. Opportunità. Istruzione che i dondessi. Istruzione superiore postiona universitaria sfida. Rischio di opportunità. Contenuti generici supporto alla di piani di lezione e progettazione di attività decontestualizzati. Corsi complessi. Differenziate e eccessiva generazione di materiale dipendenza da cave di studio e multimodali. 22. Parte di insegnanti simulazioni. 50. Oberati di lavoro. 22. Opportunità. Creazione rapida. Contro gruppi specifici. 23. Ammissioni doc 69. Tabella 3. Opportunità e sfide delle AG nei diversi livelli di istruzione. La tabella offre un'analisi comparativa che evidenzia come le implicazioni dell'IAG si manifestino in modo differenziato nel percorso educativo, richiedendo approcci e policy contestualizzati. Sezione 6. Il costo cognitivo, autonomia, pensiero critico e la filosofia dell'apprendimento. Oltre alle questioni di integrità ed equità, l'integrazione dell'IAG solleva interrogativi ancora più profondi che toccano il cuore stesso della missione educativa. Qual è l'impatto di questi strumenti sullo sviluppo cognitivo degli studenti? E come stanno riconfigurando la nostra stessa definizione di apprendimento? La discussione si sposta dal cosa gli studenti producono al come pensano e imparano, dipendenza tecnologica e autonomia dello studente. Una delle preoccupazioni etiche più ricorrenti è che l'uso pervasivo e non mediato dell'AIG possa favorire una profonda dipendenza tecnologica, erodendo l'autonomia dello studente. 52. La facilità e l'efficienza con cui questi strumenti possono generare risposte, risolvere problemi e completare compiti rischiano di creare una generazione di studenti deleganti, abituati a esternalizzare lo sforzo cognitivo. Questo fenomeno, talvolta descritto come l'effetto disabilitante della tecnologia, solleva timori circa il futuro delle competenze cognitive umane. 52. Quando gli studenti si abituano a delegare compiti complessi, la loro capacità di affrontare problemi senza l'ausilio di tali strumenti può deteriorarsi. Invece di sviluppare strategie di pensiero indipendenti, resilienti e creative, possono arrivare a percepire la tecnologia come la soluzione primaria, se non unica, a qualsiasi sfida accademica. Questa dipendenza può avere effetti a lungo termine, compromettendo non solo le loro future opportunità professionali, ma anche la loro capacità di partecipare alla società come cittadini autonomi e consapevoli. 52. Erosione del pensiero critico e apprendimento superficiale. Strettamente legata alla dipendenza è la preoccupazione per l'appiattimento del pensiero critico e creativo. 52. L'apprendimento significativo non consiste nella semplice acquisizione di risposte corrette, ma nel processo di lotta, indagine e costruzione della conoscenza. Quando le risposte sono immediatamente accessibili tramite AIG, gli studenti possono perdere interesse per il processo di apprendimento, concentrandosi esclusivamente sul risultato finale. Questo approccio può ridurre il loro coinvolgimento attivo, portando a un'esperienza di apprendimento più superficiale e meno significativa. 52. Neil Selwyn, un eminente critico della tecnologia educativa, avverte che concentrarsi esclusivamente sui bisogni del mercato del lavoro, per quali l'IA sembra una soluzione efficiente, rischia di promuovere un apprendimento superficiale, a scapito del pensiero critico. 94. Inoltre, l'interazione con l'IA può indurre fissazione cognitiva, un fenomeno per cui gli studenti esposti a una soluzione plausibile generata dalla macchina faticano a esplorare percorsi di pensiero alternativi e più originali, limitando di fatto la loro creatività. 90. LIG e la teoria del carico cognitivo. Un'arma e doppio taglio. Un quadro teorico utile per analizzare l'impatto cognitivo dell'AIG è la teoria del carico cognitivo, Cognitive Load Theory, CLT95. La CLT postula che la nostra memoria di lavoro ha una capacità limitata e distingue tre tipi di carico cognitivo: pensiero critico e lo sforzo di elaborazione, che costituiscono il carico pertinente. Questo può portare a una pigrizia metacognitiva, in cui gli studenti smettono di riflettere attivamente sul proprio processo di apprendimento e sulle strategie da adottare. 97. La ricerca suggerisce che l'esito di questa interazione non è determinato dallo strumento in sé, ma dalle competenze preesistenti dello studente. Uno studio ha rilevato che l'uso dell'AIG amplifica il ruolo del pensiero critico. Gli studenti con maggiori capacità critiche sono in grado di utilizzare l'AIG per promuovere un apprendimento più profondo, mentre la conoscenza pregressa diventa un fattore meno determinante. 96. Ciò implica che l'alfabetizzazione critica all'IA non è un'opzione, ma un prerequisito fondamentale per un uso benefico della tecnologia. Senza di essa, l'IAG rischia di danneggiare proprio gli studenti che avrebbe dovuto aiutare, ridefinire la filosofia dell'apprendimento e la crisi della valutazione. In definitiva, l'IAG costringe la comunità educativa a porsi domande esistenziali. Se un'intelligenza artificiale può scrivere saggi, superare esami di ammissione alle facoltà di legge e medicina 99 e produrre lavori che sono indistinguibili da quelli degli studenti, allora, cos'è l'apprendimento in questo nuovo ambiente 2? Questo scinde il legame tradizionale tra il prodotto della valutazione, il saggio, l'esame e il processo di apprendimento che si presume esso rappresenti. La valutazione tradizionale entra in una crisi esistenziale. Non si tratta più solo di prevenire il plagio, ma di ripensare radicalmente cosa e come si valuta. L'attenzione deve necessariamente spostarsi dal prodotto, che può essere generato artificialmente, al processo. La capacità dello studente di argomentare, criticare, riflettere, usare l'IA come uno strumento e giustificare le proprie scelte. Il dibattito si sposta quindi dall'acquisizione di conoscenze, che l'IA può replicare efficacemente, allo sviluppo di competenze unicamente umane, giudizio etico, intelligenza emotiva, creatività autentica, collaborazione e pensiero critico applicato. 1. In questo nuovo paradigma, il ruolo dell'insegnante si trasforma da trasmettitore di contenuti a leader etico, che guida gli studenti non solo nella materia, ma anche nel dibattito critico su queste tecnologie e sul loro impatto. 1. Sessione 7. Le infrastrutture nascoste, privacy, copyright e impatto ambientale. L'interfaccia pulita e la risposta istantanea di un chatbot nascondono un'infrastruttura complessa e controversa. L'adozione dell'intelligenza artificiale generativa, nell'istruzione, non è un atto neutrale, ma implica l'adesione a un ecosistema tecnologico con costi nascosti significativi in termini di privacy, proprietà intellettuale e impatto ambientale. Questi costi, spesso esternalizzati e non immediatamente visibili all'utente finale, sono fondamentali per una valutazione onesta della tecnologia. Il problema della scatola nera è la privacy dei dati. I sistemi di AIAGE, in particolare i grandi modelli, LinguistiC, LLM, operano con scatole nere, black boxes, 20. È estremamente difficile, se non impossibile, per gli esterni, e talvolta anche per i loro stessi creatori, comprendere appieno il percorso logico che porta un modello a generare un output specifico. Questa mancanza di trasparenza e spiegabilità, un campo di ricerca noto come Explainable AI, XAI, solleva profonde preoccupazioni riguardo alla responsabilità, all'affidabilità e alla fiducia, specialmente quando questi sistemi vengono utilizzati per prendere decisioni che influenzano il percorso educativo degli studenti. 102. Strettamente connessa è la questione della privacy. La promessa pedagogica fondamentale dell'AIAGE è la personalizzazione, che per essere efficace richiede la raccolta e l'analisi di enormi quantità di dati degli studenti, dalle loro risposte ai loro stili di scrittura, fino ai loro schemi di interazione. 52. Questa raccolta massiccia di dati è intrinsecamente in conflitto con i principi di privacy e protezione dei dati, come quelli sanciti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, GDPR, in Europa, che promuovono la minimizzazione dei dati. 52. Una volta che i dati di uno studente vengono utilizzati per addestrare o affinare un modello, diventa tecnicamente quasi impossibile rimuoverli completamente. Ciò potrebbe violare il diritto all'oblio, un principio fondamentale della legislazione europea sulla privacy. 45. La tensione tra la promessa di personalizzazione e il diritto alla privacy non è un problema tecnico da risolvere, ma una contraddizione fondamentale che richiede una scelta esplicita da parte delle istituzioni educative su quale valore privilegiare. Il campo minato del copyright, l'AIGE, è al centro di un acceso dibattito legale sulla proprietà intellettuale che si articola su due fronti: l'input, i dati di addestramento, e l'output, i contenuti generati. SIS copyright sull'input. Gli LLM sono stati addestrati su vastissimi dataset che includono miliardi di testi e immagini prelevati da internet, molti dei quali protetti da copyright. I creatori di contenuti e gli editori sostengono che questo processo costituisca una violazione del copyright su una scala senza precedenti, un furto di conoscenza umana. 5. Le aziende tecnologiche, d'altra parte, si difendono, invocando la dottrina del fair use, uso corretto, o sostenendo che si tratti di un uso non espressivo. In quanto la macchina non legge, l'opera per il suo valore estetico, ma solo per estrarne pattern statistici. 104. Numerose cause legali di alto profilo sono attualmente in corso, e il loro esito plasmerà il futuro modello di business dell'AIAGE. 104. Sives copyright sull'output. La questione della titolarità del copyright sui materiali generati dall'IA è altrettanto complessa. La maggior parte dei quadri giuridici attuali, inclusi quelli degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, nega la protezione del copyright a opere create interamente da una macchina, richiedendo un coinvolgimento umano significativo, un'impronta creativa umana. 105. Questo crea un'area grigia per educatori e istituzioni che utilizzano l'AIAGE per produrre materiali didattici. Chi possiede i diritti su un piano di lezione o un'immagine generata da un prompt di un insegnante? La mancanza di chiarezza legale rappresenta un rischio e un deterrente per l'innovazione. 105. L'impatto ambientale nascosto. L'impronta ecologica dell'AIAGE è un costo esternalizzato raramente discusso nel contesto educativo. È l'addestramento, i e l'operatività, inferenza, degli LLM, sono processi ad altissimo consumo di risorse. Se il consumo energetico è l'addestramento di un singolo modello di grandi dimensioni come GPT-3 ha un'impronta di carbonio stimata in 85.000 kg di CO2. Equivalente alle emissioni di 123 automobili a benzina per un anno. 106. Se consumo idrico. I data center che ospitano questi modelli richiedono enormi quantità di acqua dolce per il raffreddamento. Si stima che l'addestramento di GPT-3 abbia richiesto 700.000 litri di acqua. 108. Sykes costo dell'inferenza. L'impatto ambientale non si ferma all'addestramento. L'uso quotidiano di questi strumenti è l'inferenza. Ha un costo energetico continuo. Alcune stime suggeriscono che l'inferenza su larga scala potrebbe avere un impatto ambientale annuale molto superiore a quello del addestramento, potenzialmente fino a 1400 volte maggiore per un'applicazione come la ricerca Google potenziata da IA. 108. Una singola query a un chatbot può avere un'impronta di carbonio da 4 a 5 volte superiore a quella di una ricerca web tradizionale. 107. Le aziende tecnologiche sono spesso poco trasparenti riguardo a questi costi ambientali, rendendo difficile una valutazione completa. 109. L'intelligenza apparentemente scontata o gratuita di questi sistemi ha un prezzo reale, pagato dall'ambiente e distribuito sulla collettività globale. Le istituzioni educative, promuovendo l'uso di questi strumenti, diventano inconsapevolmente parte di un ecosistema con significative esternalità negative, un fatto che dovrebbe essere al centro di ogni discussione etica sull'adozione dell'IAG. Parte 3. Navigare la trasformazione, politica, pedagogia e persone. Di fronte alla rapida e pervasiva diffusione dell'intelligenza artificiale generativa, le istituzioni educative, i governi, gli educatori e gli studenti non sono spettatori passivi. Stanno emergendo risposte complesse, e talvolta contraddittorie, per governare, regolare e adattarsi a questa trasformazione. Questa parte finale analizza i quadri di governance in costruzione, l'impatto sulla professione docente e l'esperienza vissuta degli studenti, per concludere con una riflessione critica sul futuro dell'istruzione nell'era dell'IA. Sessione 8. La risposta delle istituzioni, governance, regolamentazione e quadri di riferimento. La necessità di governare l'IAG nell'istruzione è universalmente riconosciuta, ma gli approcci variano significativamente, creando un mosaico di risposte a livello globale, regionale e nazionale. Organismi internazionali e quadri di riferimento. A livello globale, organizzazioni come l'UNESCO e l'OCSE hanno assunto un ruolo di guida nel definire principi e raccomandazioni, operando principalmente attraverso la soft law. UNESCO, promuovendo un approccio decisamente umanistico, e l'UNESCO ha pubblicato la sua Guidance for Generative AI in Education and Research. Sento questo documento fondamentale identifica 8 controversie chiave, tra cui disuguaglianze nell'accesso, bias algoritmici, opacità delle scatole nere e appropriazione indebita di dati, e propone 7 azioni strategiche per i governi. Queste azioni includono la necessità di regolamentare la privacy dei dati, rivedere le leggi sul copyright, stabilire un'età minima per l'uso indipendente degli strumenti IAG e finanziare strategie governative coordinate. Inoltre, l'UNESCO ha sviluppato UN AI Competency Framework for Teachers, quadro di competenze sull'IA per gli insegnanti, UN riferimento globale per la progettazione di programmi di formazione che equipaggino i docenti con le competenze necessarie per un uso etico ed efficace dell'IA. 112. OCSE, OECD e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico si concentra principalmente sull'impatto dell'IA, sulle competenze richieste per il futuro del lavoro e sulle implicazioni per l'equità educativa. 115. L'OCSE solleva preoccupazioni specifiche riguardo all'ampliamento delle disuguaglianze dovuto al divario digitale e all'accesso iniquo alla tecnologia. 23. In una collaborazione significativa con la Commissione europea, sta sviluppando UN AI Literacy Framework, quadro per l'alfabetizzazione all'IA, per l'istruzione primaria e secondaria, che mira a definire le conoscenze, le abilità e le attitudini necessarie per gli studenti, e che sarà integrato nella prestigiosa valutazione internazionale PISA a partire dal 2029. 69. Quadri regionali e nazionali. Mentre gli organismi internazionali forniscono linee guida, a livello regionale e nazionale si assiste a un mix di regolamentazione vincolante, hard law, attivismo sindacale e legislazione specifica. Unione Europea. L'Unione Europea sta adottando l'approccio più normativo a livello globale con l'AL Act, una legislazione orizzontale che classifica i sistemi di IA in base al livello di rischio. 119. I sistemi utilizzati in contesti educativi, specialmente quelli che possono determinare l'accesso all'istruzione o valutare gli studenti in modo critico, potrebbero rientrare nella categoria ad alto rischio, con conseguenti obblighi rigorosi in termini di trasparenza, supervisione umana e gestione dei rischi. 120. È l'European Digital Education Hub, ed è supportato dalla Commissione Europea. Fornisce inoltre raccomandazioni pratiche per gli educatori e su come insegnare per l'IA, con l'IA e sull'IA, sottolineando la necessità di mantenere sempre il controllo umano sulle decisioni pedagogiche. 121. CHAIC Attivismo Sindacale. ENIA, I e TUSE, i sindacati degli insegnanti si stanno mobilitando per proteggere la professione. La National Education Association, NEA, negli Stati Uniti ha proposto una dichiarazione politica che afferma il carattere insostituibile dell'interazione interpersonale tra studenti ed educatori, chiedendo che questi ultimi rimangano al centro del processo educativo. 122. In Europa, l'European Trade Union Committee for Education, ETUCE, ha avviato un progetto per mappare l'impatto dell'IA sulle condizioni di lavoro e sulla salute e sicurezza degli insegnanti, con l'obiettivo di rafforzare la capacità dei sindacati di negoziare collettivamente su questi temi. 125. CHAIS, Legislazione Statale. California, alcuni governi subnazionali stanno agendo in modo proattivo. La California, ad esempio, ha visto l'introduzione di proposte di legge, come la AB 2652 e la SB 1288, che mirano a istituire gruppi di lavoro composti da educatori, studenti e rappresentanti del settore privato, per sviluppare linee guida e policy modello per l'uso sicuro ed efficace dell'IA nelle scuole. 128. Un'altra proposta di legge californiana mira a vietare esplicitamente la sostituzione dei docenti dei community college con bot di IA, un'iniziativa sostenuta dalle associazioni di docenti. 122. Questo panorama di governance è frammentato. Le istituzioni educative si trovano a navigare in un complesso mosaico di approcci che vanno dai principi etici di alto livello della FED, soft law, internazionale, ai regolamenti tecnici vincolanti della hard law, europea, fino alle iniziative legislative e sindacali locali. Questa frammentazione crea incertezza e rende difficile lo sviluppo di policy coerenti, specialmente per le istituzioni con una vocazione internazionale. Inoltre, emerge un conflitto latente tra due filosofie di governance. Da un lato, l'approccio promosso dall'OCSE si concentra sull'alfabetizzazione all'IA, ponendo l'accento sulla formazione di utenti, studenti e insegnanti, critici e consapevoli, capaci di mitigare i rischi attraverso un uso informato. 89. Dall'altro, l'approccio dell'Unione Europea si concentra sulla regolamentazione by design, imponendo obblighi ai produttori di tecnologia per garantire che i sistemi siano sicuri, equi e trasparenti, fin dalla loro progettazione. 119. Il primo approccio pone l'onere della responsabilità sull'utente finale, il secondo, sul produttore. Sebbene non si escludano a vicenda, questa diversa enfasi riflette un dibattito fondamentale su chi debba farsi carico della responsabilità per un'IA etica. Una strategia di governance efficace richiederà un equilibrio delicato tra l'empowerment degli utenti, attraverso l'educazione e la loro protezione attraverso una regolamentazione robusta. Area tematica UNESCO Approccio Normativo Soft Law. Linee guida. OX. OECD. Soft Law. Sviluppo di. Commission Europea Hard Law. Globali. E quadri di riferimento. Regolamentazione e raccomandazioni per analisi economiche vincolante attraverso governi. 101. Raccomandazioni L'AI Act. Con un. Politiche. 115. Approccio basato sul rischio. 119. Sottolinea la necessità, impone obblighi di affrontare le rigorosi ai sistemi ad protezione dei dati e di preoccupazioni sulla alto rischio per la stabilire un'età minima privacy come parte di governance e la per l'uso. 21. Un'adozione etica. 117. Sicurezza dei dati. In linea con il GDPR. 45. Promuove un'evidenza. Il rischio che l'AI Act richiede che l'approccio umanistico, l'IA possa esacerbare sistemi ad alto rischio per proteggere le disuguaglianze siano testati e l'equità e l'inclusione e esistenti, digital divide, monitorati per la diversità culturale e ricide politiche per prevenire e mitigare i linguistica. 21. Un'implementazione bias discriminatori. 66. Equa tontis run, integrità accademica, riconosce e le analizza come l'IA. Il focus è più sulla controversia e sulla cambia. Le competenze e regolamentazione del validazione delle richieste e la natura del sistema che sulle conoscenze chiede compiti, influenzando pratiche accademiche, una riflessione allungo indirettamente la specifiche, ma i sistemi termine sulla valutazione. 116. Di valutazione, valutazione. 21. Potrebbero essere classificati ad alto rischio. 120. Formazione ha sviluppato un AI. Sottolinea l'importanza supporta lo sviluppo di insegnanti competency della formazione degli competenze digitali, framework for insegnanti per gli educatori teachers, come garantire che l'IA attraverso iniziative riferimento globale per aumenti, e non come l'europina la formazione. 112. Sostituisca il loro digital education. Ruolo. 23. Hub. 802.000 yen. Focus principale etica. Diritti umani. Impatto economico, sicurezza, diritti inclusione globale e futuro delle fondamentali, mercato governance competenze, equità unico digitale e umanocentrica, nell'accesso e sviluppo regolamentazione di e-literacy, basata sul rischio, tabella due, analisi comparativa dei quadri politici, privacy dei dati, richiede ai governi di regolamentare la bias e equità, internazionali per l'IA nell'istruzione. La tabella mette a confronto gli approcci di UNESCO, OCSE e Commissione Europea, evidenziando convergenze e divergenze strategiche. Sessione 9. È il giocatore in evoluzione, riqualificazione, deprofessionalizzazione e nuovi ruoli. L'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa sta innescando una profonda riconfigurazione della professione docente. Se da un lato emerge un imperativo categorico per la riqualificazione e l'aggiornamento delle competenze, dall'altro si profilano rischi concreti di deprofessionalizzazione e l'emergere di nuovi ruoli specializzati che potrebbero frammentare la figura dell'insegnante. L'imperativo dell'upskilling e reskilling. Esiste un consenso quasi unanime sul fatto che la forza lavoro docente necessiti di un massiccio sforzo di upskilling, miglioramento delle competence esistenti, e reskilling, acquisizione di nuove competence, per navigare l'era dell'IA.131. Questa necessità si articola principalmente attorno al concetto di alfabetizzazione, all'IA, AI literacy. Non si tratta semplicemente di imparare a usare un nuovo software, ma di sviluppare una competenza multidimensionale che include la capacità di utilizzare efficacemente gli strumenti, padroneggiando tecniche come l'ingegneria dei prompt.62, sì la capacità di valutare criticamente gli output dell'IA, riconoscendone i limiti, le imprecisioni, o allucinazioni, e i bias intrinseci Bond 23, la consapevolezza delle implicazioni etiche, legali e sociali del loro utilizzo. 135. Per rispondere a questa esigenza, stanno nascendo programmi di formazione specifici per insegnanti, sia nella formazione iniziale, pre-service, che in quella continua, in-service. 136. Questi curricula sono spesso strutturati in moduli che coprono le basi concettuali dell'IA, le abilità pratiche e uso etico e responsabile, con l'obiettivo di rendere i docenti utenti fiduciosi, competenti e critici. 135. La minaccia della deprofessionalizzazione. Contrariamente alla narrazione ottimistica, l'introduzione dell'IA comporta anche rischi significativi per lo status e l'autonomia della professione docente. Sai, gestione algoritmica. L'uso di piattaforme IA per la pianificazione delle lezioni, l'analisi delle performance degli studenti e la gestione della classe può portare a forme di gestione algoritmica. In questo scenario, le decisioni pedagogiche, tradizionalmente appannaggio della discrezionalità e dell'esperienza del docente, vengono sempre più suggerite o dettate da sistemi automatizzati, erodendo l'autonomia professionale. 141. S'aumento paradossale del carico di lavoro. La promessa principale dell'IA per gli educatori è quella di risparmiare tempo, automatizzando compiti ripetitivi. 23. Tuttavia, l'analisi critica di studiosi come Neil Selwyn suggerisce un effetto di intensificazione. 84. L'automazione di un compito spesso non elimina il lavoro, ma aumenta le aspettative su quanto di quel lavoro debba essere svolto. Ad esempio, se il feedback può essere generato istantaneamente, ci si potrebbe aspettare che gli insegnanti forniscano commenti su ogni singola bozza di un compito, moltiplicando il lavoro. 84. Inoltre, l'uso responsabile dell'IA introduce nuovi compiti. La verifica dei fatti per contrastare le allucinazioni, la mitigazione dei bias, la personalizzazione degli output generici e la riprogettazione delle valutazioni. Invece di ridurre il carico, l'IA lo trasforma, aggiungendo nuovi strati di complessità e responsabilità. 84. Si ulti isolamento professionale. La creazione di risorse didattiche con l'IAG è spesso un'attività individuale e solitaria, che contrasta con le pratiche collaborative tradizionali di condivisione e coproduzione di materiali tra colleghi, indebolendo le comunità di pratica professionali. 84. L'emergere di nuovi ruoli professionali. La complessità dell'integrazione dell'IA sta portando alla nascita di nuovi ruoli professionali, specializzati all'intersezione tra pedagogia e tecnologia, suggerendo una potenziale frammentazione della professione docente. Seat ai curriculum designer. Emerge la figura del progettista di curriculum IA, un professionista che non si limita a usare l'IA, ma progetta interi percorsi di apprendimento e materiali didattici che integrano nativamente le competenze di IA e sfruttano gli strumenti generativi per migliorare l'esperienza formativa. 143. Questo ruolo richiede una rara combinazione di competenze pedagogiche, conoscenza disciplinare approfondita e una solida comprensione dei principi dell'IA. 146. Chase, prompt engineer, ingegnere dei prompt. Poiché la qualità dell'output di un LLM dipende in modo cruciale dalla qualità dell'input, il prompt e l'ingegneria dei prompt sta diventando una competenza e una professione a sé stante. In ambito educativo, questo ruolo si concentra sulla creazione, l'affinamento e l'ottimizzazione di prompt per ottenere risultati didattici di alta qualità, pertinenti e contestualmente appropriati, sia per gli insegnanti che per gli studenti. 88. Questa dinamica suggerisce una possibile scissione futura della professione docente. Da un lato, potrebbe emergere un'elite di tecnopedagogisti, altamente specializzati che progetta e governa i sistemi di apprendimento basati sull'IA. Dall'altro, l'insegnante di classe tradizionale potrebbe rischiare di essere relegato a un ruolo di mero facilitatore o implementatore di percorsi e contenuti progettati altrove, con una conseguente perdita di autonomia, creatività e status professionale. Questa potenziale nuova gerarchia, all'interno della professione, potrebbe esacerbare le disuguaglianze e cambiare radicalmente la natura del lavoro di insegnante. Sessione 10. È l'esperienza dello studente. Percezioni, motivazioni e relazioni. Al centro della trasformazione indotta dall'IAG, c'è l'esperienza dello studente. Comprendere come gli studenti percepiscono, utilizzano e si relazionano con questi strumenti è fondamentale per valutarne l'impatto reale. La ricerca sta iniziando a svelare un quadro complesso fatto di adozione pragmatica, nuove dinamiche motivazionali e l'emergere di inaspettate relazioni socio-emotive con la tecnologia. Percezioni e modelli di utilizzo. Gli studenti, in particolare a livello universitario, hanno adottato l'IAG con notevole rapidità e pragmatismo. La utilizzano per un'ampia gamma di attività accademiche, con la stesura di testi e la preparazione di compiti che rappresentano gli usi più comuni. 53. Le loro percezioni generali sono positive, soprattutto per quanto riguarda l'utilità percepita, miglioramento della performance, la facilità d'uso e persino il piacere nell'interazione. 151. Tuttavia, gli studenti non sono utenti ingenui. Riconoscono attivamente i limiti e le sfide di questi strumenti, tra cui l'inaffidabilità e l'inaccuratezza delle informazioni, il rischio di generare contenuti privi di pensiero critico, le preoccupazioni per il plagio e i problemi tecnici. 53. Questa consapevolezza suggerisce che molti studenti stanno sviluppando una forma di alfabetizzazione pratica, imparando a navigare tra i benefici e i rischi. L'adozione di questi strumenti può essere spiegata attraverso modelli consolidati come la teoria unificata dell'accettazione e dell'uso della tecnologia, UTOUT. Fattori come l'aspettativa di performance, la convinzione che lo strumento aiuti a raggiungere obiettivi accademici e l'aspettativa di sforzo, la facilità d'uso, percepita, sono i principali motori dell'adozione. 151. Un altro fattore cruciale è l'influenza sociale. La percezione che l'uso dell'IAG sia accettato e incoraggiato da docenti e pari ne favorisce l'integrazione nelle pratiche di studio. 151. È l'aspetto relazionale. Tutor IA e relazioni parasociali. Un aspetto sorprendente e profondo dell'interazione studente, IA è la sua dimensione relazionale. Gli studenti non percepiscono l'IAG solo come uno strumento inerte, ma spesso come un assistente. 164. Una partner di studio. 152. O persino un amico. Questa tendenza a interagire con la tecnologia, come se fosse un attore sociale, porta alla formazione di relazioni parasociali. Legami emotivi unilaterali che gli utenti sviluppano nei confronti di entità mediali, in questo caso i chatbot. 155. Questo fenomeno è particolarmente rilevante per i bambini e gli adolescenti, che sono inclini a formare legami con personaggi fittizi e possono estendere questo comportamento agli agenti IA. 156. Antropomorfismo, la tendenza ad attribuire caratteristiche, intenzioni ed emozioni umane AI. Chatbot è un fattore chiave che modula questa relazione. Chatbot percepiti come più umani, dotati di personalità e intelligenza, inducono un maggiore senso di presenza sociale, rendendo l'interazione più positiva e coinvolgente. 157. Questa dinamica non è casuale, ma è spesso un obiettivo di progettazione delle aziende EdTech, che sfruttano l'antropomorfismo per aumentare l'engagement e la dipendenza mediatica degli utenti. 159. L'introduzione dell'IAG nell'istruzione non è quindi solo una questione pedagogica, ma anche psicologica e sociale. Si stanno inserendo nelle vite degli studenti agenti non umani con cui essi formano legami emotivi. Questo solleva questioni etiche cruciali sulle conseguenze a lungo termine di queste relazioni sintetiche per lo sviluppo socio emotivo, specialmente nei più giovani. Impatto sulla motivazione. La teoria dell'autodeterminazione Self-Determination Theory SDT offre un quadro per comprendere l'impatto dell'IAG sulla motivazione all'apprendimento. Secondo la SDT, la motivazione intrinseca è sostenuta da tre bisogni psicologici fondamentali: autonomia, competenza e relazionalità. I chatbot educativi possono potenzialmente soddisfare tutti e tre questi bisogni. Supportano l'autonomia, permettendo agli studenti di apprendere al proprio ritmo e di esplorare argomenti in modo indipendente. Sostengono la competenza fornendo aiuto immediato, feedback e spiegazioni che permettono di superare gli ostacoli. Favoriscono la relazionalità simulando un partner conversazionale disponibile 24/7, soddisfacendo un bisogno di connessione. 160. Tuttavia, questi benefici sono fragili. La mancanza di una vera empatia e di un ambiente emotivo autentico, unita al rischio di ricevere informazioni inaccurate, può minare l'efficacia di questo supporto motivazionale. Punto 160. Inoltre, come discusso in precedenza, un'eccessiva dipendenza dalla facilità con cui l'IA fornisce soluzioni può erodere la motivazione intrinseca, spostando il focus dal piacere del processo di apprendimento alla semplice ricerca del risultato finale. Punto 52. Infine, emerge un chiaro divario di percezione tra studenti e docenti. Gli studi mostrano che gli studenti sono generalmente più aperti e positivi verso l'IAG, vedendola principalmente come uno strumento pragmatico per migliorare l'efficienza e la performance accademica. 151. I docenti, al contrario, tendono ad avere una visione più olistica e critica, preoccupandosi maggiormente dell'impatto sulla profondità dell'apprendimento, sul pensiero critico e sull'integrità del processo educativo. 93. Questo scollamento tra le prospettive dei principali attori dell'ecosistema educativo può generare incomprensioni e conflitti riguardo alle policy e alle pratiche. Una governance efficace non potrà ignorare questo divario, ma dovrà cercare di mediarlo attraverso un dialogo aperto che riconosci la validità di entrambe le prospettive. Conclusion. Oltre il soluzionismo, verso una pedagogia critica e umano-centrica, questo rapporto ha mappato il complesso e controverso territorio dell'intelligenza artificiale generativa nell'istruzione, muovendosi dalla sua genealogia storica alle sue applicazioni attuali, dalle prove quantitative del suo impatto alle profonde crisi etiche che innesca. La sintesi finale di questa analisi non può che essere un netto rifiuto del tecnosoluzionismo, ovvero la filosofia riduzionista, secondo cui problemi sistemici, sociali e pedagogici complessi possono essere risolti con l'applicazione di una nuova tecnologia. 5. L'IAG viene spesso presentata attraverso una narrazione di inevitabilità, un progresso ineluttabile a cui l'istruzione deve semplicemente adattarsi. Questa narrazione, tuttavia, non è neutrale. Come evidenziato nel corso dell'analisi, essa maschera gli interessi commerciali delle grandi aziende tecnologiche, Big Tech, le cui agende possono entrare in conflitto con i valori educativi tradizionali e le strutture di potere che beneficiano di una trasformazione dell'istruzione in un mercato di prodotti e servizi. 5. L'adozione dell'IAG, come ha sostenuto criticamente Neil Selwyn, non è un evento tecnico, ma una scelta politica che riflette lotte di potere e desideri aziendali di riformare l'istruzione secondo logiche di mercato, efficienza e datificazione. 4. L'analisi ha dimostrato che l'intelligenza di questi sistemi è scontata, in entrambi i sensi del termine. È scontata, perché i suoi costi reali, la violazione del copyright dei creatori di contenuti usati per l'addestramento 103, la sorveglianza e la mercificazione dei dati degli studenti 163 e l'insostenibile impatto ambientale 106 sono esternalizzati e pagati dalla collettività, dall'ambiente e dai gruppi più vulnerabili. Ed è scontata perché, allo stesso tempo, rischia di scontare e devalutare l'intelligenza umana, promuovendo la dipendenza, lo scarico cognitivo e l'erosione del pensiero critico. 52. Le critiche di studiosi come Selwyn ci avvertono che l'integrazione acritica dell'IA rischia di perpetuare e amplificare i danni sociali esistenti contro i gruppi minoritari e di ridurre la ricca complessità dei processi educativi per renderli leggibili dalle macchine, machine readable, un processo che impoverisce l'educazione stessa. 8. Pertanto, la conclusione di questo rapporto non è una serie di raccomandazioni prescrittive su come usare l'IA, ma un appello a un cambiamento di paradigma nel modo in cui ne discutiamo. È necessario rallentare il dibattito. 8. Resistere alla pressione dell'innovazione per l'innovazione e porre al centro domande fondamentali sui fini dell'educazione. Il futuro auspicabile non risiede nel trovare il modo più efficiente per integrare l'IA, ma nel coltivare una pedagogia critica e umanocentrica. Questo implica lo sviluppo di una alfabetizzazione critica all'IA, critical AI literacy, ci vada ben oltre la semplice competenza funzionale. Un'alfabetizzazione critica insegna a studenti ed educatori non solo a usare gli strumenti, ma a interrogare i sistemi stessi, chi li ha costruiti, con quali dati, per quali scopi, quali bias incorporano, quali strutture di potere rafforzano. 162. In questa visione, l'IAG può trovare un posto, ma come strumento deliberatamente scelto, attentamente governato e inequivocabilmente subordinato a una missione educativa che valorizzi l'autonomia umana, l'equità sociale, la profondità intellettuale e la dignità di ogni studente. Il fine non è adattare l'educazione all'IA, ma piegare l'IA ai principi irrinunciabili di un'educazione che sia veramente umana. L'intelligenza, sia essa umana o artificiale, non deve mai essere data per scontata. Bibliografia. A. Implications of Artificial Intelligence in Education. The Educator as Ethical Leader, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https, www.firochkatepublication, 3tp.com, intelligence torsir underscore soreducation underscore soreducator underscore sore ethical underscore leader 2. Supporting instruction and learning through artificial intelligence, a survey of institutional practices and policies WFIE, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.wice.uwp content uploads sites 20/7 AI survey in depth analysis report sama 3 AI in education TLN journal HKDCA accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025 https://hkdca.com/wp content uploads totale 412/1 in education career.pdf 4 Book Reviews, Issue, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://sync. Against the commodification of education if harms then not AI, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://inioldenburg.de. Journals OGS Tulajos Rosroprot Proprosor Viral Dublusrof 38451-6. Sustainable Artificial Intelligence o Weizenbaum Journal of the Digital Society, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https. ogs.weizenbauminstitute.de index.phpwjds article view 41-1-4-fach-wen, set. Locke Law Center for Applied English Studies, The University of Hong Kong Style, Scholarship of Teaching in Language Education, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://education%9% 9% every% 9% language% 8 PDF On the Limits of Artificial Intelligence AI in Education ResearchGate accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025 https://scolarentobelisearchgate.net publication Intelligence Tursor I underscore underscore underscore Tiction Nov. Intelligent Tutoring System Wikipedia. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://wikipedia.org Wiki Intelligent underscore Tutoring underscore STEM. This. Intelligent Tutoring Systems Campus. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://compassproject.net sadhana teaching reading sites.pdf Yeden Arzt History of AI in Education From Origins to Future The Schoolhouse Anywhere Accesso e seguito Il giorno 5 luglio 2025 https://anywhere.org Post History AI Education Origins Future Dvan Arzt The Role of AI in Modern Education Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025 https://onlineprogramseducation.uiowa.edu/blog Role of AI in Modern Education. N13. On the Origins and Influences of Artificial Intelligence in Education. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://chakspef.discovertechweb.com Salaja News Articles on the Origins and Influences of Artificial Intelligence in Education. 14. Intelligent Tutoring Systems. A comprehensive historical survey with recent developments. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://slol/slol/slol/slol/slol/slol/an. Org Saves, volume 81, number 4 Israel Slok Hatlane, Chilo Silej, 450.pdf 15. Intelligent Tutoring Systems. A comprehensive historical survey with recent developments. ARCS 4. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://slos/slos/slos/slos/slos/loi 16. Intelligent Tutoring Systems, Enhancing Learning Through AI, The Princeton Review, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://de-princeton-review.com Solon AI Education Intelligent Tutoring Systems 17. Intelligent Tutoring Systems. What Happened? A Learning Industry. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://learningindustry.com, Olivetti Tutoring Systems What Happened, Osum Natst, Generative AI and Future Education. A Review, Theoretical Validation, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://cbi.nlm.nih.gov/articles/pmc/halastrahalenfingfifine. Devatenazt, www.croctasie.pub.com. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.cbi.com proportal downloads. DOI 10021 scronto fila name j. CSAT 214.pdf 20. Traditional AI versus Generative AI. What's the difference? College of Education o Illinois. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://selleducation.illinois.edu/about/news/events/news/article. 24 Civenish What is Generative AI vs. 21 Guidance for Generative AI in Education and Research. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.content/uploads/drossatrosrocksrocksrange.pdf 22 Generative AI anche 12 Education an MIT perspective. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://mitgeni.pubu.org/pubu4k9msv70 3 Octivene The Future of Teaching. What the OECD says about AI in classrooms, Day of AI Australia, accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://deofaustralia.com/the future of teaching what the OECD says about AI in classrooms. 24. Harnessing generative AI in higher education, opportunities, challenges, and ethical imperatives, ResearchGate. Accesso, eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://drotresearchgate/podrication/399/roid in_higher_opportunities_challenges_ethical_imperatives 2005. How can AI in education go from fascinating to functional? O by McGraw-Hill Medium. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://trendoscrandoscrazzeninspiredideaspractuelles how can AI in education go from fascinating to functional 29, eb 39 milioni e 630.356.26 Keynote speaker Professor Dr. Mike Sharples Generative AI in Education YouTube Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025 https://www.youtube.com/watch vht2ifinbdxx 27. Developing students, higher-order thinking skills, with generative AI insights and strategies from a case study, ResearchGate. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://scrollont/https ER order gorkinking underscore skills underscore with narecorative underscore AI insights underscore underscore tachegages underscore from underscore A underscore CAs underscore sedi 28. Generative AI for K-12 Education or Research Report by ApplyFi. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.applyfi.co/research/report/gen-ai-for-k-12 29. Generative AI and Education. Dynamic Personalization of Pupils' School Learning Material with ChatGPT Frontiers. Accesso eseguito il giorno luglio 5, 2005. www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/fejuk.2024.128872. 3 full 30. Using artificial intelligence tools in K-12 classrooms or and. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scrollen/scr Future Blog, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://culcateacher.com/slots H-Generative AI Classroom Examples. 32. Supporting L-Instruction with AI. Ideas for Educators o Color in Colorado, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://colorincolorado.org Articles Supporting L-Instruction AI Ideas Educ. Authors. 33. Generative AI in Education and Research. A Systematic Mapping Review ResearchGate, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://netprotiosearchgate.net publication, sanzan hap sanzan halfarion descorindo scorindo keicio. En endercore searcher core endercore systematic or mapping endercore review 34, PDF. Generative AI, Challenges to Higher Education, ResearchGate, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.droysearchgate.net, Publication Sampachi, Sampachi Ort. Generative underscore underscore challenges to higher education 35. Generative artificial intelligence tools to augment teaching scientific research in postgraduate study for South African Journal of Higher Education. Accesso e seguito il giorno luglio 5, 2025. journals.co.za/doi/full/10.208533/39-1-6275.36. Board of Regents of the University of Wisconsin System Education. Committee, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://robywisconsin.edu Regents Download Meeting. Materials post-SUFI Meeting. Materials BATA Meeting Book, Education Committee February 6, 2025.pdf 37. How Higher Education Can Realize the Potential of Generative AI. Deloitte. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.deloitte.com/scrum/sites/industry/public-sector/generative-ai-higgs. Har. Education.html 38. AL. Power Tools for Higher Education Pearson. Accesso e seguito il giorno. Luglio 5, 2025. www.pearson.com/n-us/higher-education/products-services/istudytool.html. 39. McGraw-Hill introduces new Gen AI learning tools, campus technology, accesso, e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://campustechnology.com are articles d'Arvila and 408 al 21 McGraw-Hill introduces Gen AI learning tools, SPX, Admageria, uguale News 40. McGraw-Hill announces two new generative AI tools to enhance capabilities of its K-12 and higher ed learning platforms. GlobeNewsWire, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://globenewswire.com solo release trachazarwire.com sules. W. Hill announces two new generative AI tools to enhance capabilities of its K-12 and higher ed learning platforms. HTML 31. Pearson to debut generative AI study tools to university students internationally. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://plcpearson.com/ngbnews-and-insights-news-pearson-debut-generatis. V. A. Study, Tools University, Students, Internationally 42. P.D. F. Integrating Open Source LLM Interfaces in Educational Platforms for Personalized Learning Analytics, ResearchGate, accesso e seguito il giorno luglio. 5 maggio 2025. https://scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scolare-scol Mendes-Corcases in Educational Platforms for Personalized Learning Analytics 43, Small Models, Big Support. A Local LLM Framework for Teacher. Centric Content Creation and Assessment Using RAG and CAG, ARCUARTR, accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://arcuartre.org/html2025v1-44 Generative Artificial Intelligence AI in Higher Education, a comprehensive review of challenges, opportunities, and implications. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://journal.aldinhe.ac.ikindex.php/jldhe-article-view-is-rete-anti-set-45 UNESCO Reassert Public Control over Generative AI Government Technology. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.govtech.com/education/UNESCO Reassert Public Control over GIS. Generative AI 46. The Effects of Gen AI on Learning Performance. A Meta-Analysis Study Research Gate. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.researchgate.net/publication, trasadato mai medescoron endes, earning score performance endescore e endescore meta-analysis endescore 2D47. The Effect of Generative Artificial Intelligence on Students, Academic Achievement, a meta-analysis researchgate, accesso eseguito il giorno luglio 5, 2025.

AI Detector o Bright Space Support o Vanderbilt University. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://vanderbilt.edu/brightspace/edu/run/nilo/detection/an. DY were disabling Turnitin's AI detector, 57. Advice for students regarding Turnitin and AI writing detection, academic integrity, accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025, https://academicsintegrity.unimal.tu.eu plagiarism and collusion artificial intelligence tools and technologies advice for students regarding Turnitin and AIW. 18. Detection 58. All writing detection in the classic report view Turnitin guides. Accesso eseguito. Il giorno 5 luglio 2025. https://turnitin.com/hcnus-articles/285/95 al writing detection. N. In the classic report view. 59. Artificial intelligence bias on English language learners in automatic scoring. Arcafortor. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://colortosvorezzaforton.org. html. 60. Welcome to a special episode of the Spotlight on Best Practice podcast, the first in a series that will address concerns around accesso eseguito il giorno luglio 5, 2025. www.canterbury.ac.uk/learning-and-teaching-enhancement/docs/al-and-education Robin Crockett, podcast, transcript.pdf 61. See you. Boulder faculty express concerns about ChatGPT on campus. See you. Independent. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.express.com/ns/ChatGPT, AI, chatbot, technology, at CU, Boulder Bata 62, guidance for instructors UFAI, University of Florida, accesso e seguito il giorno, Luglio 5, 2025, ai.ufl.edu/teaching-with-ai/expanding-the-ai-curriculum/guidance-for-ins. Rutgers, 63, Vitality, on ChatGPT, Villanova University, accesso e seguito il giorno Luglio 5, 2025, https://villanova.edu, content dam Villanova vital vitality vitality on ChatGPT TTS, TSAM PDF, 64, California colleges spend millions to catch plagiarism and all, is the faulty tech worth it? Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://themarkup.org, Artificial Intelligence 2026, AI Detector California. 65. Turnitin Services Privacy Policy, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://news-articles-273-37 Turnitin Services. VC, Policy 66, Bias in All, Chapman University. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.chapman.edu/ai-bias-in-ai.spx. 67. All Bias, Artificial Intelligence in Education. LibGuides at Marion University. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://libguides.marion.edu/php/gset/777/fanfanonovas. www.edutopia.org/article/equity-bias-ai-what-educators-should-know/. 69. All for Students Guide, Ethical Concerns, Research Guides, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://libguides.stcat.generativeaiethics. Generative AI in Education, A Tool for Equity or a Barrier to the Future, Champion Briefs, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://championbriefs.com/blog. Equity 70, Digital Equity in the Age of Generative AI, Bridging the Divide in Educational Technology, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://www.ac.uk/blog. Digital Equity in the Age of Generative AI, Bridging the Divide in Educational Technology. 72. Enhancing Adaptive Learning with Generative AI for Tailored Educational Support for Students with Disabilities, Science Open, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://scienceopen.com/document. Doeboi var, Tomi var 20. 73. How Might Generative AI Impact AI in University Classes, Center for Engaged Learning, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://www.centerforengagedlearning.org/how-might-generative-ai-impact-day.in University Classes. 74. Neurodivergent Minds, AI Supported Learning, Harnessing General AI as a Study Partner, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://www.techfunic.com/whitepapers Neurodivergent Minds AI Supported Layers, Earning Harnessing Gen AI as a Study Partner, Part -175. All and Accessibility, Center for Teaching Innovation, Cornell University, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://teaching.concornell.edu Generative Artificial Intelligence AI Accessibility. 76. How to use AI tools to support English language learners' opinion, education week, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://quarento.org/technology opinion how to use AI tools to support English language learners, 5 marzo 2024. 77. profuturo.education, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://profuturo.education and Observatory Inspiring Experiences IA en las Aulas Latinoamericanas Mapeando UN Futuro en Construction Bata. Text uguale a the percent 20 first percent 20 challenge percent 20 is percent 20 basic, Internet percent 20 access percent 20 is percent 20 patchy. 78, From Hype to Reality, Rethinking All in Education Across Latin America and the Caribbean, Enfoque Educación, blog del Banco Interamericano de Desarrollo. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://adb.org, Education and From Hype to Reality Rethinking AI in Educatis, On, Across, Latin America, and the Caribbean 79, PDF. The Implementation of Artificial Intelligence in South African Higher Education Institutions, Opportunities and Challenges, ResearchGate, Accesso, eseguito il giorno 5 luglio 2025, https://netprontresearchgate.net, Publication, The Implementation of Art, Artificial Intelligence in South African Higher Education Institutions Opportunities and Challenges 80, Generative AI, A Threat or an Opportunity, Assessing the Potential Impact Within the South African Context, IRMSE, accesso eseguito, il giorno 5 luglio 2025, https://irmse.org, ZA Communications Generative AI Threat or Opportunity A, Assessing Potential Impact Within, South African 81, Towards an Institutional Framework for the Adoption of Artificial Intelligence in Latin American Universities, accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. Institutional Framework for the Adoption of Artificial Intelligence in Latin American Universities. 82. AI in Latin American Classrooms. Mapping a Future Under Construction Pro Futuro. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://trofuturo.education. Observatory Inspiring Experiences IA en las Aulas Latinoamericanas Mapeando un Futuro en Construcción. 83. Breaking Barriers, Exploring AI Adoption in Higher Education UWC, accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025, https://wec.ac.esa News and Announcements News Breaking Barriers Explore, Ring AI Adoption in Higher Education 84, More Work, For Teacher, The Ironies of Gen AI as a Labor-Saving Technology, accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://criticaltech.com Zahelvandfinsink, More Work for Teacher The Ironies of GEs. NAI as a Labor-Saving Technology 85. Voices of Innovation. AQ and a Series on Generative AI. Part 4. Pearson. Accesso eseguito il giorno luglio 5, 2025. www.pearson.com/and-us/higher-education/insights-and-events/teaching-and-learning-blogs/2024/04/voices-of-innovation-kanda-series-on-generative-ai-part-4.html. 80. Generative AI and ChatGPT in School Children's Education. Evidence from a School Lesson. Accesso eseguito il giorno luglio 5. 2025, www.mdpi.com/2071-1051/15/18/14025. 87. Full article. Generative AI versus Instructor versus Peer Assessments, A Comparison of Grading and Feedback in Higher Education, Taylor E. Francis Online, accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025, https://www.tenfonline.com/ledioles/spul/ct-elimpalis. Neriolo sempartileri uri simpach, ctqsu, fr. 88. Newsletter, December 2024 Pamplin College of Business Virginia Tech, accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025, https://pamplin.vt.faculty-and-staff-resources-newsletters-24-12.html. 89. New AI Literacy Framework to Equip Youth in an Age of AI. OECD. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://oecdtoday.com. Soleo AI Literacy Framework to Equip Youth in an Age of AI. 90. The Cognitive Paradox of AI in Education. Between Enhancement and Erosion Frontiers. Accesso eseguito il giorno luglio 5, 2025. www.frontiersen.org/journals/psychology/articles/10.3389/fcyg.2025.150.602 Full 90. Gen AI from a Literacy Lens, Research on Teaching Texts with Tech, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://toet.txest.du. Assets Division of Information Technology Documents, Tusanifu AI Symposium Armstrong %100% Hadviven %anto Armstrong 90 The Role of AI in College Admissions, What to Know, Fehe Associates, accesso e seguito il giorno luglio 5. 2005, fahi.associates/the-role-of-ai-in-college-admissions-what-you-should-k. Now -293, Generative AI, in Higher Education, Challenges and Opportunities for Course, Learning or Advances in Social Sciences Research Journal, Scholar Publishing, accesso e seguito, il giorno 5 luglio 2025. https://scholarpublishing.org/index.php/sRJ-article-view-l-hent-havet-hoh-ux 94. The Future of AI and Education, Some Cautionary Notes, ResearchGate, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://lobliodrosearchgate.net publication. 36404, Cation_Cautionary_Notes 95. Challenging Cognitive Load Theory, The Role of Educational Neuroscience and Artificial Intelligence in Redefining Learning Efficacy, PMC, PubMed Central. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://cdi.nlm.nih.gov articles, PMC edresign, 2.7.3.2. 96. PDF. Generative Artificial Intelligence amplifies the role of critical thinking skills and reduces reliance on prior knowledge, while promoting in-depth learning. ResearchGate. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://net.researchgate.trofal.net/publication/trend-revela-20-feature-artificial Jensen_amplifies_olen_critical_analysis_use_relian_prior_knowledge while_promoting_in-depth_learning 97. Generative AI and Learning Analytics. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://learninganalytics.info/index.php/jla-article-view-8961 98. Generative Artificial Intelligence amplifies the role of critical thinking skills and reduces reliance on prior knowledge while promoting in-depth learning, MDPE. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.ndbi.doclis 99. Generative Artificial Intelligence in Learning Analytics, Contextualizing Opportunities and Challenges Through the Learning Analytics Cycle ARCS 4. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://arcafortune.org, HTML, 2312087. 100. The Future of Education in the Age of AI, The Learning Council, accesso, e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://learningcouncil.com or articles The Future of Education in the Age of AI. I sent to know. PDF. UNESCO Proposal for the Use of Generative AI in Education, accesso, e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.net/publication/3/AI_in_education/8challenges_actions102 The Role of Graph Theory in Explainable AI, XAI, accesso e seguito il giorno luglio 5, 2005, gr.org/index.php/journal/article/view/2519.103. The AI Input Class, Constitutional Urgency and Fair Licensing in AI Copyright, Class Actions, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://gpl.law.nyu.du The AI Input Class, Constitutional Urgency and Fair License, Inc. in AI Copyright, Class Actions 104, Copyright and the Training of Human Authors and Generative Machines, Scholarly Commons, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://scholarship.law.gw.ddu/cgi/viewcontent.cgi, article-fino-fino-and-context-facults, Windus Publications 805, Intellectual Property Rights in AI-Created Educational Content, Issues and Solutions, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://qa.net/index/pqa article download, 7th and note, 106, Evaluating the carbon impact of large language models at the inference stage, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://lola/priot/researchgate.net publication resreto carbon dollars act underscore of underscore large score language underscore models at underscore the underscore inference underscore stage 107. AI's impact on the environment, AI for education, accesso e seguito il giorno, luglio 5, 2025, www.a4education.io/ais-impact-on-the-environment.108. LLMs and the effect on the environment eviden. Accesso e seguito il giorno, luglio 5, 2025, eviden.com/insights/blog/llms-and-the-effect-on-the-environment/.109. AI's carbon footprint appears likely to be alarming or PA. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.pae.com/llblogs. Real-time ARs likely be alarming 110. Guidance for Generative AI in Education and Research UNESCO, accesso. E seguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.unesco.org/articles, Guidance Generative AI Education and Research. RCH 110. Guidance for Generative AI in Education and Research or European School. Education Platform. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://colatschooleducation.cc.europa.un/discover-publications guidance generat. IVE AI Education and Research x12. What you need to know about UNESCO's new AI competency frameworks for students and teachers. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://colatschooleducation.cc.europa.un/discover-publications/guidance-generat. What you need know about UNESCO's new AI competency framework students and teachers 113. Summary of UNESCO AI competency framework for teachers CDL. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://cddl.org. Summary of UNESCO AI competency framework for teachers 114. UNESCO AI competency framework for teachers or CDFOP European Union. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.cosratcdfop.europa.eu/tackling-early-living-resource. CS UNESCO AI Competency Framework Teachers 150. What should teachers teach and students learn in a future of powerful AI? OECD. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scolans/scol www.powerful-ai_ca56c7d6-n.html 116 Artificial Intelligence and Education and Skills OECD Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025 https://www.edu.org/topics Artificial Intelligence and Education and Skills.html 117 The Potential Impact of Artificial Intelligence on Equity and Inclusion in Education, OECD. Accesso eseguito il giorno 5, luglio 2025. www.oecd.org/in/publication/the-potential-impact-of-artificial-intelligent.c-on-equity-and-inclusion-in-education-core5t-dft5pb-n.html 118. OECD. An European Commission unveiled draft AI literacy framework for schools. Accesso eseguito. Il giorno 5 luglio 2025. https://pbl.ai/AI/OECD and European Commission unveiled draft AI literacy framework. Arco for schools. 190. European Commission spokesperson sends message to Google, Facebook, and other tech giants on AI rules. Let me be as clear as possible. Accesso eseguito il giorno luglio. 5. 2025, timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/european-commission. Spokesperson sends message to Google, Facebook and other tech giants on AI rules. Let me be as clear as possible. Article show 1222254711.cms 120. AI report, Publications Office of the EU, European Union, accesso eseguito il

country place teachers, union and state lawmakers say, politico, accesso, è seguito, il giorno 5 luglio 2025. https://www.politico.com/newsletters/weekly-education/2024/AI-Cantrepla. CE teachers union and state lawmakers say 00164,500 and 99,123, report of the NEA task force on artificial intelligence in education, accesso, è seguito il giorno 5 luglio 2025. https://scrollator, sites default files 2024-06 report underscore of the underscore NEA underscore force underscore artificial undercore intelligence sercore undercore education undercore ito sentivore.pdf 124. Utah Educators Gather in Philadelphia for 2024 NEA Representative Assembly, OUEA. Accesso è seguito il giorno 5 luglio 2025. https://advocatingchange.new/from-UEA-Utah-Educators-Gather-Field. Adelphia 2024 NEA Representative Assembly 125. ETUS Call for Tenders. Subcontracting Research Expertise on Artificial Intelligence and Education. Accesso è seguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.slodraslone/slodravrosontro.funprabriostratres Tracting Research Expertise on Artificial Intelligence and Education 126. ETUS's ongoing project explores AI's impact on education workers or healthy workplaces. Accesso è seguito il giorno 5 luglio 2025. https://chisolalchisolarchislarchislarchiworkplaces.osha.europa.ulv-media-center-news ETUS's ongoing G project explores AI impact education workers 127. Project Activities European Trade Union Committee for Education, accesso, è seguito il giorno 5 luglio 2025. https://scolaro/scolaro/www.scolaro-projects, projects balancing AI in edu finse plus tro project activit. IS 128. AB 2152. Assembly Bill Policy Committee Analysis, accesso è seguito il giorno 5 luglio 2025. https://apcp.assembly.ca.gov system files contusen vichuvior conarabi contusen roxed vichura maratsuchi apcpn. Alysis, pdf 129. Bill text, CA ab 2152, o 2023, e 2024 o regular session o introduced legiscan. Accesso è seguito il giorno 5 luglio 2025. https://legiscan.com/ca. Text ebidu 662 ID, HT 130. Governor's Final Actions Casbo, accesso è seguito il giorno 5 luglio 2025. www.casbo.org/articles/advocacy/newsbreak/govs-final-action/. 131. Reskilling and Upskilling, a Strategic Response o Talent Guard, accesso, è seguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.reskilling-upskilling-strategic-response-changi. Engi Skill Demands 132. Four reasons upskilling and reskilling are essential for teachers quick schools. Blog. Accesso è seguito il giorno 5 luglio 2025. https://blog.quickschools.tro/cross-laws-veroch-to. G is essential to the teaching workforce 133. Why we must bridge the skills gap to harness the power of AI. The World Economic Forum. Accesso è seguito il giorno 5 luglio 2025. https://scolole/scolole/strole/strole/strole/strole/stores/dole/tulet/vinvici/forzevo/1. To truly harness AI we must close at his EAAI Skills Gap. 134. AI Literacy. Getting Started. EdTech Digest. Accesso è seguito il giorno luglio 5, 2025, www.edtechdigest.com/2024/10/29/ai-literacy-getting-started/. 135. AI Literacy for Educators or Programs or TC Academy Teachers College. Columbia University. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://tc.columbia.edu/academy-programs-all-offerings-ai-literacy-for-ed. UKTERS 136. Full article, The Impact of Generative, AI, GenAI, on Practices, Policies and Research Direction in Education. A Case of ChatGPT and Midjourney. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://tanfonline.com/oi. Full for 4 hours to 363 on. 137. Integrating Artificial Intelligence in Teacher Education. A Systematic Analysis. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://regretrato.epr. Neru intre 3 svilo epic. 138. Launching AI Literacy Curriculum for Teaching and Learning Staff Artificial Intelligence. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://nationalacentreforai.gischinvolve.org/lobby-upwp-2025-ginci. Launching AI Literacy Use Curriculum for Teaching and Learning Staff 813e. Understanding AI Literacy, Stanford Teaching Commons. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://colastras-trace-string-commons. Stanford.edu Teaching Guides Artificial Intelligence Tier. Teaching Guide Understanding AI Literacy, 140. AI Literacy for All Course. Digital Education Council. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://digitaleducationcouncil.com's Digital Education Council AI Literacy for All Course, 141. Let's stop asking whether teachers are professionals. Let's ask what kinds of professionals we want teachers to be. National Education Policy Center. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://strado. Ponte Dieru Sites Default Files Publications PB Presenta Tregan Goodwin. PDF 142. The Future of Work. Using Tech to Empower in the Digital Economy. SlideShare. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://blion.radrideshare.net Slideshow. The Future of Work Using Tech to Empower in the Digital Economy 5 and on Section 39-3-43-43. Shanghai Foreign Talent Recruitment Market Panorama, Multi-Field Enterprises, Release International Job Demand, accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025, https://jojob.com/logs, Shanghai Foreign Talent Recruitment Market PS, Noram, ZBXSCJ Hamku, Johasu Hong PFML VCLYL, 144. www.igantic.com. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://scrollare-scrollare-scrollare-scrollare-scrollare-scrollare-professional-level-AI-jobs-education. Teachers Bata, Text L% 20 Curriculum% 20 Designer% 3A% 20 With% 20N 2% 20 Enhanch% 20 The% 20 Learning% 20 Experience. 145. All Jobs in Education for Teachers, Exciting Opportunities Algantic, Accesso. Eseguito il giorno 5 luglio 2025. 146. www.igantic.com/ai-jobs/ai-jobs-by-professional-level/ai-jobs-education.teachers. Curriculum Designer Jobs Shine. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://shine.com. Job Search Curriculum Designer Jobs. 147. All in Education. EdTech's Game Changer. Roles and Innovations. Derter Technologie. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://derter-technologie.com solvendex.php 2023. Des 14 AI in Education Emerging Roles. For AI. Professionals in EdTech 148. Remote Prompt Engineering Jobs. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://promptlyhired.com's Prompt Engineering Jobs Remote. 149. Discover Opportunities in the AI Industry Prompt Engineering Jobs. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://promptlyhired.com's Prompt Engineering Jobs P7. Study. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.researchgate.net publication 398 Exploring Perceptions of L. Earners Towards Using ChatGPT A Qualitative Study 151 Generative L in Higher Education Teachers and Students' Perspectives on Support, Replacement, and Digital Literacy MDPI Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025 152 Full article ChatGPT is like a study buddy, a teacher and sometimes just a friend, a longitudinal exploration of students' interactions, perception and acceptance. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025 https://www.com/no/hot/2025online Sfarsi. Intelligence, ARCS 4. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://4.org pdf doatarosquada 72. 154. Perceptions and Earliest Experiences of Medical Students and Faculty with ChatGPT in Medical Education, Qualitative Study. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://doaror 155. Inequities AI and Digital NORAG. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. resources.norageducation.org/storage/documents/nllpz 3grnwcbimfc.it g0tuv55qxt4snla xpa gsn.pdf 156. Classrooms are adapting to the use of artificial intelligence. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://epia.org Monitor 2025 Monitor 157 The impact of new generative AI chatbots on the switch point SP toward an artificial emotional awareness AEO Emerald Insight Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025 https://doratmerald.coms Content DOI WNAHOT Jim0Fine, ML, 158. Full article. Social presence and imagery processing as predictors of chatbot. Continuance intention in human-eye interaction Taylor E. Francis online. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://scolare 159. Exploring the impact of anthropomorphism in role-playing AI chatbots on media dependency. A case study of Chuanhe AI, ARCS 4, accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025, https://x4.org, html, 37v1, 160. What motivates people to prefer and love chatbots? An empirical investigation based on self-determination theory. ResearchGate. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://publication38svenzvetzer:cortu prefer_love_chatbots_empirical_tigation_based_on_self_determination_theory 161 Virginia Tech researchers study generative AI usage in higher education accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025 https://news.vt.botedu_articles 2025-01, CN Regenerative AI, .html. 162. Deconstructing the AI Myth, Fallacies and Harms of Algorithmification. ResearchGate. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://solort/prosalort/sex/salort/scordia_mice/fallacies_harms_of_algorithmification 163. Unmasking global education industries and their capital accumulation. Strategies on materiality and discourse by Curtis Rie Poera, University of Alberta. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://rera/librera/ualberta.ca items. Loksam Pachi, EFCEF Sam. IPA-GHC-D-HAR-NISI-SAM-SHI-HAR-HAR-PQ-SAM-LOX-UF-KONG-ATA-NISI-SAM-BER-HAR-PIA-DESCORTI-SO-DESCORE-FON-TO-PI-HA-DI 164. News and Events, Institute for Technoscience and Society, York University. Accesso e seguito il giorno 5 luglio 2025. https://colons/colons/colons/trons/colons/trons/colons/trons/lorons/lorons/CR-Research-ITS-Events 165. Citizens Lighthouse. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. citizenslighthouse.com/dat 166. On the limits of artificial intelligence. AI, in education or Nordisk. Accesso. Eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.troctagoslotraslotraspratratraslotrafraicalview.luxray 167. On the limits of artificial intelligence in education or PDF, scribd, accesso. Eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.scribd.com/document/set/set/farset/farti/document. NCE in Education 168. Framework for the Learning and Teaching of Critical AI Literacy Skills. The Open University. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025. https://www.open.aac.uk/learning/design/wnp/content/uploads/2021/literacy-framework-tamivano-sharing.pdf 169. Teaching Critical AI Literacies, Living Document, Knowledge Commons. Accesso eseguito il giorno 5 luglio 2025, https://solosedamons.org. Getter underfornas, literacies, _giovin document, pdf.